Ehi, apro gli occhi che è già mezzo pomeriggio. L'ora che la gente esce dall'ufficio. Grido al cielo, ti odio se diventi grigio. Fra sembra il catrame questo dentifricio. Certe volte non bastano il sole e il vento fresco. Quando lei dice che vuole qualcosa e non ci riesco. Ma tu ami questo che dico sto male, l'hai richiesto. Strappa la mia faccia da fallito su quel manifesto. Dice che al viaggio non siamo pronti, ma noi già viviamo dentro gli aeroporti. Quindi fino al giorno che non siamo morti, sfudiamo il disagio sopra i pianoforti. Sensazione di sconforto immotivata che rischia di trasformare in peggio questa giornata. Allora scrivo un pezzo e spero se ne vada. Allora scrivo questo e spero se ne vada. Allora scrivo un pezzo e spero se ne vada. Questa giornata. Allora scrivo questo e spero se ne vada. Questa giornata. Già in perfetto ritardo. Mi sento come ad un colloquio di lavoro fatto e sotto l'effetto dell'alcol. Coi rimasugli di un incubo che non mi ricordo. Recupererò i frammenti nel corso del giorno. Aspetta un secondo, prima di tutto un caffè ne ho bisogno. Ma sa di bruciato e la tazza sembra senza fondo. Leggo due titoli galleggiando nel sonno. È una giornata di merda per qualcuno da qualche parte nel mondo. Chi impazzisce? Chi fa fortuna e chi fallisce? Chi per indole unisce, chi spartisce? Chi sostiene che solo tra simili ci si capisce? Lo ribadisce. Mi muovo solo come per un assalto in affanno. Per loro sono solo un altro bastardo italiano. Sempre in ritardo e con l'aspetto insano. Che sogna chiaramente in vano. Con lo sguardo perso di chi ha niente in mano. Allora scrivo un pezzo e spero se ne vada. Questa giornata. Allora scrivo questo e spero se ne vada. Questa giornata. Mi sveglio, guardo fuori, c'è un colore solo. Sembra che il cielo stia precipitando al suolo. Preparo colazione, spezzo una Marlboro. Scaccio il male, aspetto il sole come ai tempi d'oro. Ma oggi non c'è luce, tipo inverno al polo. Soluzioni non ci sono, prendi il volo. Lasci che ti condizioni, quando in testa ho solo paranoia in coro. L'unica cura è sta musica, paracetamolo. Nuvole nere a lutto, esco per fare un tuffo. Alzo il cappuccio della felpa e sono pronta a tutto. Nelle cuffie martella di brutto, rime fitte. Misura i danni di sta merda con la scala Richter. E se l'apocalisse arrivasse ora, non la sentirei, morirei con questo loop che suona. Faccio un giro giù in zona, non c'è da temere. Tanto l'aria sta da cagnà come Pino Daniele. Allora scrivo un pezzo e spero se ne vada. Questa giornata. Allora scrivo questo e spero se ne vada. Questa giornata.